Grazie mille. Abbiamo iniziato con Danny Boy di Bill Evans, un po' sul jazz per collegandoci al tema, perché siamo qua oggi. Allora, collegandoci un po' al tema, anche perché qua siamo a raccontare un pezzettino di storia di uno scrittore che ha avuto una grandissima affascinazione nei confronti del jazz, Jack Kerouac. A me ha sempre colpito il fatto che, sempre rimanendo un po' in tema, ogni qualvolta era stato possibile, lui si ficcava in un club per ascoltare Charlie Parker. E la cosa interessante, quantomeno, è il suo tentativo di scrivere una nuova prosa americana, in buona parte profondamente influenzato da quel tipo di flusso, quel tipo di flusso nuovo che i neri americani nei confronti della sperimentazione jazzistica stavano portando avanti. Questo mi fa dire una cosa che un po' approfondiremo dopo: una distanza abissale rispetto alla letteratura fatta dai letterati europei. Parliamoci chiaro, abbiamo avuto una grande letteratura in Europa con dei magnifici scrittori, però questo tipo di esperimenti, questo tipo di, anche di commistioni, questo tipo di vicinanze tra arti diverse non ha caratterizzato molto il lavoro dei nostri letterati. Noi vedremo oggi come Kerouac in qualche modo ha dimostrato, non a parole ma nei fatti, di non essere un letterato. E mi è capitato, all'inizio non è stata una mia scelta, di approfondire questi giorni in Italia, 4 giorni che Jack Kerouac passò in Italia nel 66, e lo vedremo anche dopo attraverso dei video. Furono giorni in cui si palesò, per i pochi che allora furono in grado di vederlo e capirlo, uno scontro di cultura, uno scontro di culture. Non si era minimamente preparati in Italia, l'Italia pre-68, a capire il portato di uno scrittore che ci appariva, e in parte lo era, come uno scrittore selvaggio. E quindi siamo qui un po' per provare oggi, da una parte forse a raccontare degli aneddoti che capitarono, che caratterizzarono quel 66, e dall'altra parte, se avete voglia, provare anche a guardare quello scontro di civiltà, quello scontro tra un animale selvaggio, meraviglioso per me, che fu Jack Kerouac, e la cultura italiana impantanata in regole, in modalità previste e prescritte, che Kerouac in maniera potente, quantomeno, non rispettò. Io direi, andiamo subito al dunque a livello visivo e ci vediamo qualche secondo, è un video che dura molto poco, di Jack Kerouac qui in Italia, qui a Milano nel 66. Il frammento che vediamo di video è l'unico disponibile dell'intervista televisiva avvenuta la sera del 28 settembre 66 con Fernanda Pivano, che gli sta accanto e prova a, per certi versi, a tamponare la situazione, a essere dolce, avendo di fianco una persona che non stava rispettando nessun canone di regole non scritte per come ci si doveva comportare in pubblico. Poi ci vediamo una video intervista che ho fatto qualche settimana fa, l'avrei dovuta fare prima dell'uscita del libro, ma l'editore aveva un po' fretta di pubblicare questo libro per portarlo a una fiera a Roma, e quindi questa intervista che vediamo dopo con Parazzoli nel 66 lavorava nell'ufficio stampa di Mondadori e andò lui a prendere con l'autista Jack Kerouac a Linate. Lo intervistai, se ricordo bene, a gennaio, febbraio, E lui ci racconta un po' quello che si ricorda di quei giorni e inizia a dare anche una sorta di interpretazione di quel momento. Aggiungo solo l'ultima cosa. Il parere di Parazzoli, che prima di questa intervista è finito anche in questo libro mio, in questa mia ricerca, secondo me è particolarmente importante per due ragioni. Uno, la sua posizione interna alla Mondadori, quindi ci dà uno sguardo importante di quei fatti, anche perché se ne è occupato almeno della data milanese molto lui, un po' per l'importanza della persona. Parazzoli poi divenne per almeno 10 anni il direttore degli Oscar Mondadori, e per un fatto altro secondo me ancora più importante. Parazzoli mi ha detto, e forse lo dice anche nell'intervista se ricordo bene, che lui da sempre scriveva, ma debutta molto tardi. Il suo primo romanzo del 1976, a 10 anni esatti dagli eventi di cui parliamo stasera. Interessante che in questo romanzo, O città o Milano, ci sia uno dei personaggi principali che è Jack Kerouac. E io do un'interpretazione nella mia ricerca, nel mio libro, che Parazzoli nel 66 non poteva dire quello, non poteva dire pubblicamente cosa aveva interpretato di quegli eventi. E forse non poteva neanche prendere le parti del povero Kerouac, povero tra virgolette. Perché lavorava in Mondadori, forse era il caso di dire, beh, Jack Kerouac si è comportato in un modo inaccettabile, forse. 10 anni dopo, però, in questo suo romanzo, introvabile adesso, racconta molto mettendosi dalla parte di questo scrittore non capito. E quindi questo video che vediamo insieme, secondo me, è tanto importante, ecco, nessuno... aveva mai chiesto a Parazzoli di ricordare un po' quegli eventi. Per me la cosa interessante tra le molte è che qui siamo in una situazione che per il 66 era tra le più formali possibili. C'era era un'intervista pensata per la RAI, quando le cose contavano un sacco, eh? Quindi per esempio uno dei commenti che quando mi capita di condividere questo video più frequenti che leggo è una cosa banalissima e scontata e naturale per certi aspetti: quanto cazzo ero ubriaco. Però non mi basta, cioè Kerouac, oltre a essere in quel momento uno scrittore più noti d'Occidente, oltre a essere uno scrittore che ha dimostrato di avere un'intelligenza e una capacità estetica altissima, questo mi fa dire che non mi basta questa interpretazione. Cioè, ho provato a raccontare come in qualche modo il suo fosse più o meno consapevolmente un posizionamento diverso rispetto al contesto, che poi magari vi racconto meglio. Parazzoli. Andiamo direttamente a Parazzoli e poi ci facciamo una chiacchierata insieme. Va bene. Parazzoli 2 mesi fa ci ricorda soprattutto gli eventi milanesi, quindi i momenti precedenti a questa intervista serale per la televisione. Qualcuno ha qualcosa da dire? Mi piacerebbe fare una chiacchierata più che un pippone che parte da me, a dire la verità. Se qualcuno ha sfumature di ragionamenti, mi piace ascoltare prima voi, se no provo ad aggiungere pezzettini io. Tiro fuori delle carte un po' così. Uno, no, piccola premessa, Parazzoli ogni tanto parla di intervista, vi ribadisco una cosa, tardo pomeriggio c'è stata la presentazione, quella che abbiamo visto all'inizio per la RAI era l'intervista per la televisione avvenuta di sera, quindi sono due momenti diversi. Sera Fernanda Pivano, mentre i presentatori Spinella e gli intervistatori Spinella e Bianciardi erano il tardo pomeriggio. Cose che secondo me sono interessanti, poi in parte si intrecciano. Nelle varie presentazioni in Italia di quel 66 non si parla mai del suo libro da presentare. Interessante. Tu hai delle occasioni di visibilità le più importanti per l'Italia e non si parla del tuo libro. O meglio, a te scrittore non te ne frega niente di parlare del tuo libro. Già un dato secondo me che parla molto. Era Big Sur, no? Era Big Sur, sì. 500esimo della collana Medusa, quindi anche in una posizione particolarmente cioè incorniciato in una posizione significativa. Abbiamo visto prima e abbiamo sentito tanta vita, e già ci distingue dalla quasi totalità della storia della letteratura italiana. Forse un grande diverso, nel senso più bello del termine, è Pasolini, in cui nel mondo di Pasolini si parla molto di vita. Primo dato. Secondo dato, Kerouac già in alcune opere precedenti, come Angeli di Desolazione, parla della lacerazione che la visibilità e la fama gli ha creato. Parla della sofferenza che la pubblicità ha creato per lui e i suoi amici vicini e i suoi familiari, come qualcosa di nefasto. Terzo dato, Kerouac in alcuni scritti parla della fascinazione del clown, del santo clown, di colui che in qualche modo ingaggia delle regole diverse nello stare nel pubblico. E in qualche modo nelle pagine che ho scritto io ho portato avanti questi accenni che Kerouac faceva a lui stesso. Mi spiego meglio. La mia tesi, naturalmente dando per scontato che Kerouac era spesso completamente ubriaco, ecco, non voglio minimamente negare ciò, che in Kerouac però si innesta forse una sua modalità attivata e attuata nel periodo più difficile della sua vita, che sono gli ultimi anni, lui morirà 3 anni dopo, di disattivarsi rispetto al contesto. Cioè, un dato progresso fondamentale da ricordare è: sua madre qualche settimana prima sta male e non si sa come mai Kerouac non ha soldi. Cioè, Kerouac era uno scrittore tra i più noti, che aveva venduto tantissimo, ma Kerouac non era messo bene a livello economico. Aveva bisogno di quei 1.000 euro, che credo siano stati molti soldi per il 66, quindi viene contromoglia da una parte, perché quei soldi gli servivano per mettere in una clinica privata sua madre. Kerouac in qualche modo c'è, ma completamente disattivato rispetto a un coinvolgimento dialogico con quello che accade. Kerouac è da un'altra parte. Kerouac non dialoga con niente, con nessuno, soprattutto, e qui delle chiacchierate con Gian Pieretti, cantautore molto famoso negli anni 60, sono state interessanti per capire meglio dei dettagli. Kerouac in qualsiasi condizione pubblica di quei 4 giorni è come l'abbiamo visto, nelle condizioni private spesso no. Gian Pieretti, che ha avuto la possibilità di parlare per ore con Jack Kerouac, è una delle persone, poche persone vive con cui ho potuto parlare, che hanno avuto a che fare direttamente con Kerouac, perché lui su convocazione di Fernanda Pivano a Milano e a Roma, prima delle presentazioni, cantò 3 canzoni di Bob Dylan in italiano, prima delle presentazioni di Kerouac, ebbe la possibilità di chiacchierare in totale qualche ora con Jack Kerouac in una situazione privata. E nella situazione privata lui si ricorda magnificamente bene che Kerouac era una persona carina, gentile, dialogica, curiosa, attenta, dolce, delicata. Nelle situazioni pubbliche assolutamente no. Scostante, offensivo alle volte, ambiguo, buffo, infantile. Però non è sempre stato così in quei poche ore che ha passato in Italia. Anche lì questa cosa mi ha fatto riflettere che forse aveva una sorta di senso, collegandomi a già alcuni dati che vi ho un po' accennato. È come se Kerouac volesse portare più o meno consapevolmente avanti una modalità da santo pagliaccio. Io non sono un letterato, io non ho verità per te. Io me ne frega, io me ne strafrego di qualsiasi contesto, soprattutto se c'entra la televisione importante, i giornalisti, gli altri scrittori. E un altro dato, che questa volta non riguarda di per sé l'americano, ma i giornalisti e soprattutto i pochi scrittori, ma molto importanti, che hanno avuto a che fare con Kerouac in quei giorni. Mi ha molto colpito ed è carico di significati culturali l'articolo che scrisse per l'Espresso Alberto Arbasino. Nel 66, nella stanza d'albergo a Roma, Arbasino incontra Kerouac e scrive un articolo disgustoso. Disgustoso perché da una parte Arbasino fa tutto il possibile per definirsi come letterato, lui stesso, in quanto conoscitore della letteratura e dei grandi nomi della letteratura che andavano di moda, e per screditare quest'uomo con la camicia da boscaiolo, come una caricatura di qualcosa che forse era un ricordo di Kerouac che anche gli scrittori italiani potevano avere. E qui per me si palesa un qualcosa che, oltre i dati aneddotici che ricorda Parazzoli, che sono anche per certi aspetti fanno un po' sorridere ma fanno male contemporaneamente, è un'intervista dolorosa, non lo so, dice delle cose per certi aspetti dolorose. Il dato che noi abbiamo avuto in buona sostanza una cultura libresca, una letteratura libresca. Arbasino, per contrapporsi a Kerouac, ricorda che lui è un grande conoscitore delle cose libresche importanti, mentre Kerouac parla di cazzate, non cita mai libri, non cita mai scrittori, dice cose che non hanno a che fare con la cultura libresca. È un eccentrico, un po' uno spostato di testa, che non ha certo a che fare con la letteratura che conta. E qui si palesa, quasi come accennavo all'inizio, uno scontro di cultura. Noi non eravamo preparati a capire che gli Stati Uniti d'America avevano anche un portato letterario profondamente diverso dal nostro portato, che ha delle basi gigantesche ma che alle volte ci ha portato a carriere letterarie piene di una letterarietà che alle volte non coincideva con l'essere scrittore di scrittori di altre parti del globo, forse, che hanno avuto una fascinazione, e forse è poco dire fascinazione, che hanno avuto un coinvolgimento carnale con la vita. Ricordo una cosa che è particolarmente nota: Kerouac sta anni sulla strada per scrivere in poche settimane sulla strada. Quale scrittore italiano sta anni sulla strada, nel senso reale e metaforico del termine, per scrivere poi un'opera in pochi giorni? Noi siamo stati caratterizzati profondamente da meccanismi e modalità diverse. Mi ha sempre colpito quando lessi, riflettendoci, il fatto che in un'intervista Montale ricordò lui stesso che nella sua poesia c'era malapena il 10% di vita, in Kerouac c'è il 95% di vita. Non eravamo preparati a capire questa cosa. E qui c'è, secondo me, una delle cose importanti e profonde di questo incontro, perché parliamoci chiaro, questi 4 giorni di Kerouac in Italia non cambiano niente sull'interpretazione di un conoscitore di Kerouac mondiale, non accade nulla di particolarmente vincolante. Per chi legge le opere tarde di Kerouac, che legge delle interviste o vede anche come in certe interviste televisive americane si pone Kerouac, avviene tutto in continuità quello che accade in Italia, forse in maniera un po' più estrema, ma è tutto in continuità. Però non si era preparati a quest'altra visione, questa letteratura che in qualche modo diventa anche una modalità di agire, di essere carne selvaggia, selvatica, che non ha educazione, non è educata. In qualche modo Kerouac è sempre stato più attratto dal sottobosco, dagli outsider dell'esistenza, rispetto che ai grandi letterati americani anche. E qui vi ricordo una cosa che ho un po' approfondito, è stato un pezzo avventuroso della mia ricerca, ed è stato forse il momento più fecondo dei 4 giorni che ha passato in Italia, che è avvenuto con un artista. C'era una vulgata romanzesca che ho un po' analizzato e smontato, che diceva che a Roma, il giorno dopo, quindi il giorno dopo della tappa milanese, un artista della scuola romana, un artista figurativo, Franco Angeli, trova in strada un barbone e lo invita, qualcosa di simile a un barbone, e lo invita nel suo studio. dipingono insieme una tela cominciata da Franco Angeli e solo la mattina dopo si rende conto che questa persona era Jack Kerouac, perché firma la tela Jack Kerouac. Questa era la visione romanzata. Sentendo anche la figlia di Franco Angeli, questa è una visione assolutamente non veritiera. Franco Angeli sapeva benissimo che c'era Kerouac a Roma, probabilmente o era la presentazione romana o l'ho aspettato fuori dalla presentazione romana per invitarlo nel suo studio. Insieme finiscono di dipingere una deposizione di Gesù Cristo e si intendono magnificamente bene. Cioè Kerouac in quel momento non è né eccentrico né respingente né passatemi il termine così semplice, maleducato, ma quando riconosce un artista di fianco a lui si comporta in maniera da fratello artista. Questo mi colpisce proprio per differenza rispetto a quello che abbiamo visto. Quindi perché quando c'è l'invito di un pittore sconosciuto addirittura completi un'opera d'arte che anni dopo si comprò Gian Maria Volonté, che è l'unica opera d'arte di opera pittorica di Kerouac che è in Italia, perché quando hai a che fare con Gian Pieretti nel backstage delle presentazioni sei carino, amichevole, curioso, dolce, empatico, e lo sei anche con Franco Angeli in tutte le occasioni di visibilità pubblica e di marketing e di pubblicità non lo sei? Secondo me un senso c'è, cioè, o meglio, ho provato a interpretare anche queste differenze. Perché un'ora prima a Roma ti sei comportato come a Milano e con Franco Angeli passi tutta la notte a dipingere e il giorno dopo vai per gallerie d'arte, vai a vedere Michelangelo nelle chiese romane senza nessun comportamento di insubordinazione? È un caso? Forse no. Forse in qualche modo una delle interpretazioni che possiamo dare è che ci ha insegnato a rifiutare in maniera pericolosissima un certo mondo di visibilità che riteneva falso. È venuto in Italia per prendersi quei 1.000 euro, ma non ci ha dato niente. Cioè, meglio, ogni qualvolta c'era l'ufficialità del dover dare, non ha dato niente. Ogni qualvolta gli è capitato di dover dare in situazioni, passatemi il termine, umane e non legate a visibilità, marketing, interviste ufficiali, ha dato tutto quello che poteva ancora dare, e forse non era molto, però ha dato tutto. È stato bello quando sono riuscito a quando una signora mi ha rintracciato qualche tempo fa, un po' di tempo fa, Graziella Scotese, questa signora abbastanza grande di età oggi, che aveva una ventina d'anni nel 66 ed era una giovane fotografa romana che ha passato la seconda sera romana, perché Kerouac stette un giorno a Milano, due a Roma e uno a Napoli. La seconda sera romana passò lei, giovane fotografa sconosciuta, e un giovanissimo poeta romano che si chiamava Gherardi di cognome, che ha pubblicato forse una sola opera poetica, passano tutta la sera in un pub con Kerouac. Cioè Kerouac, lo scrittore americano forse più noto in Occidente, passa la seconda serata a Roma con due sconosciuti, serenamente a bere e parlare. E Graziella mi ha dato anche la possibilità di riportare nel libro due fotografie, me le ha fatte vedere un po', fotografie che non avevo mai visto, sono le fotografie che fece la seconda sera romana. Lei mi disse che era una persona carina e dolce, cosa che non abbiamo mai visto invece con i suoi colleghi scrittori, giornalisti importanti. E secondo me questo in qualche modo ha un senso, un po' anche per chi conosce il portato di vita, il portato estetico di Jack Kerouac. Peccato come il 90% degli articoli di giornale di allora sottolinearono esclusivamente da una parte l'eccentricità di Kerouac, tanto per fare articoli un po' scandalistici, oppure non furono capaci giornalisti e scrittori di allora di comprendere anche alcune provocazioni, o comunque alcune provocazioni di Kerouac destarono subito uno scandalo. Per esempio lui disse che qualcuno gli chiese, forse a Napoli, infatti quando gli gridarono anche poi fascista, cosa pensava della guerra del Vietnam, e lui disse una cosa che forse solo con una riflessione un po' pacata si può capire o interpretare. Disse: io sono da parte dei soldati, forse quella modalità era, io sono la parte degli umili che stanno in quella zona, cioè i soldati che vanno a morire su decisione di altri. E quando gli disse questa cosa a Napoli, tutti gli gridarono fascista, no? Tutti si, forse anche tanta gente si aspettava un Kerouac molto più, passatemi il termine, hippie. Lui in un'intervista televisiva americana disse: io non sono hippie, gli hippie sono buoni, io non sono così buono, non sono né giovane né buono, non vi do, non ho verità dolci per voi. In qualche modo ce l'ha dimostrato, si è messo davanti alle telecamere in uno stato di disfacimento in qualche modo. Chiudo dicendo, sottolineando una cosa per me ovvia: quanti di noi oggi ci saremmo comportati così in una situazione dell'importanza grandiosa come era quella del 66, quando le cose contavano, quando gli articoli, le recensioni sui giornali contavano? Parazzoli, fuori dall'intervista, mi disse: una recensione sui giornali di allora del 66 faceva schizzare le vendite, ma veramente, era qualcosa di clamoroso. Quanti oggi oggi il comportamento di Kerouac non avrebbe lo stesso peso, naturalmente, di censura e di risposte negative. Oggi quasi tutto si equivale a quasi tutto, purtroppo. Però dico, nella modalità del 66, quanti avrebbero rifiutato di cogliere quelle occasioni che il tappeto rosso stava fornendo perfette? Per quei tempi, come ricorda Palazzoni, in cui tutti gli scrittori erano legati al libro, il libro era sacro e la modalità era libresca, educata, che ti conveniva anche, perché quella cosa nel 66 aveva un peso decisivo anche per la tua carriera. Quanto quell'uomo, in qualche modo, portando avanti un pezzettino di autodistruzione, ci ha comunicato un'altra idea di essere scrittore, che pochi in Italia e in Europa hanno intrapreso così. Però ora mi piacerebbe se qualcuno di voi ha qualcosa da dire o da raccontare, o anche te, perché sennò penso a un certo punto che stai parlando troppo, che palle. Io mi stavo chiedendo una cosa. Vai. Cioè, allora, abbiamo detto che Kerouac era molto di rottura rispetto al panorama letterario italiano, mi viene da dire, non solo come personaggio, ma anche proprio per il contenuto dei suoi libri, per la forma dei suoi libri, sì, della prosa. Ma quindi mi sono chiesto com'è che il libro di Kerouac arriva in Italia? Cioè, sì, se è una cosa che arriva, cioè, non so, viene introdotta magari dal basso, poi l'editore si rende conto che ha futuro. Allora dal basso no. Okay. Allora, faccio una piccola chiosa a una cosa che tu hai detto all'inizio. In America Kerouac fu di rottura, come tutti i beat all'inizio. In Italia fu completamente non capito, neanche rottura, proprio era un alieno, era un marziano, è stata una cosa folle, più che di rottura. I beat non arrivano esattamente dal basso. I beat inizialmente arrivano con Feltrinelli sul suggerimento di Fernanda Pivano, da una parte, con le poesie degli ultimi americani, 1964, pubblicate da Feltrinelli, dall'altra parte, su grandi insistenze sempre di Fernanda Pivano, traduzioni sulla strada Mondadori non gli fregava molto, perché forse non conosceva diciamo quello che accadeva in America con i beat. E la Pivano gli disse: guarda che qua l'hanno pubblicato una roba che è un romanzo generazionale formidabile, e dopo sollecitazioni continue Mondadori si fida della Pivano e lo pubblica. E se ricordo bene, no, adesso non ricordo esattamente gli anni sulla strada quando è stato tradotto in Italia, quindi non arrivano esattamente dal basso, arrivano perché, e arrivano un po' di anni dopo, perché Urlo di Allen Ginsberg è del 1956. Da noi si arriva una decina di anni dopo. Il fenomeno beat arriva poco meno che 10 anni dopo. Sostanzialmente va riconosciuto a livello storico che fu Fernanda Pivano, perché Fernanda Pivano li conosceva personalmente. Fernanda Pivano è stata l'unica, passatemi il termine, intellettuale che li frequentò in America, quando comunque loro erano conosciuti, sì, in America, ma non erano conosciuti come lo saranno negli anni 70 e anche travisati negli anni 70. Fernanda Pivano, già credo dalla fine degli anni 50, iniziavo a frequentare i primi beat americani, andando là, parlandoci, cercando di capire insieme anche come tradurre i libri. Io ho visto degli anni fa, quando frequentavo la biblioteca privata della Piovano, ho visto delle edizioni americane di testi di Ginsberg con dei segni, delle scritture in rosso, e chiesi alla segretaria della biblioteca: ma chi è che ha scritto queste robe? Lei guarda il libro e dice: queste cose qua le ha scritte Ginsberg con la Piovano di fianco, erano delle note di traduzione. E la Piovano fu l'unica che per alcuni libri ebbe i suggerimenti diretti degli autori stessi americani su come tradurre alcune cose. Quindi arrivarono così. Mi verrebbe da dire, facendo un piccolo passo avanti, che negli anni 70 c'è stata una grande mescolanza e un po' di confusione, cioè il mondo hippie, la controcultura, i 68, si è mescolato tutto, cioè Kerouac è diventato quasi come un hippie, no? Quasi come un, in qualche modo un portavoce di quel tipo di sguardo, che era uno sguardo un po' più ingenuo per certi aspetti, un po' più dolce, un po' più colorato, cosa che i Beat, tranne Ginsberg, non è che erano. Però sono arrivati così in Italia. Poi negli anni 70, mi verrebbe a dire, si divulga un po' l'orizzonte Beat, le cose diventano conosciute. Negli anni 80 abbiamo grande eclissi e poco interesse per quello che accade. Anni 90 inizia a rimontare un po' qualcosa di interesse, e negli ultimi 10 anni abbiamo avuto alcune uscite editoriali importanti, solo semplicemente sui grandi nomi. Il Saggiatore sta pubblicando lettere di Ginsberg, tutte le lettere di Burroughs, tutte le interviste che ha fatto Burroughs, tutte le interviste che ha fatto Ginsberg, libri da 75 euro, 60-75 euro. E chiudo dicendo che nel nostro paese c'è un grande buco su, tra virgolette, i beat minori, persone che comunque in America hanno fatto, si sono visti pubblicare molti libri. Per esempio Michael McClure ha pubblicato 30 libri in America, in Italia non è mai stato tradotto. È un peccato, perché le grandi case editrici non sono interessate a questi prodotti, le piccole sanno, perché ci ho parlato molte volte in questi ultimi anni, che il gioco non vale la candela, perché oggi venderebbero 200 copie pagando diritti in America e pagando un traduttore, non ci si sta nel gioco. Però c'è tutto un mondo americano che non c'è mai arrivato, un po' più complesso rispetto al Kerouac, Ginsberg, Burroughs e Ferlinghetti, che è arrivato molto Ferlinghetti da noi. Cosa ne pensate di quello che abbiamo visto oggi? Oggi è molto meno strano, credo, rispetto al 66. Ma secondo me, cioè, beh, allora, da persona che ha letto Big Sur, anche che lo trovo un testo molto interessante, secondo me si vede molto un po' la corrispondenza tra, cioè, i temi trattati in quel romanzo, e quindi secondo me è il tema che lo accompagna per tutto il tempo, ovvero quello di essere stato acclamato e riconosciuto, è diventato famoso per un'opera che rappresentava un periodo diverso rispetto al periodo in cui è esploso, e secondo me questa cosa si sente parecchio, perché secondo me è come essere, insomma, riconosciuti per qualcosa che non si è in quel momento. Tutte le persone, ragazzi che si aspettano di vedere un avventuriero, uno che è sempre in giro sulle macchine, e in verità vediamo sia qua, ma sia anche proprio, diciamo, nel romanzo per il quale è venuto, diciamo, in Italia a fare delle presentazioni, che quella fase era ormai finita, e sì, anzi si era aperta un'altra fase molto più cupa e sì, molto più di chiusura in se stesso, ecco. E anche di distruzione. Di distruzione, sì, sì, sì, sì. E almeno quello che mi passa molto, anche appunto dalla lettura di Big Sur, è principalmente quello, nel senso un po', ecco, essere arrivati, diciamo, alla fase finale, quando anche questo è interessante, no, di un po' molto l'opera di Kerouac, che è anche un po' svariati test si tratta di questo tema di ricercare quella solitudine contemplativa, quella possibilità di diciamo allontanarsi, ecco, a uscire fuori dalle cose per meditare, quello che poi alla fine fa solo in gran parte quando faceva il guardafuochi nei boschi, che sono dei mesi che sta effettivamente in una, diciamo, solitudine più completa. Ecco, per il resto del tempo è, diciamo, un tema che accompagna moltissimo la produzione, ma non arriva quasi mai. Un pochino, secondo me, lo si vede questo tentativo in Big Sur, quando decide di ritirarsi a casa di Monsanto, che poi è Ferlinghetti. E però quella ricerca di solitudine è ormai assunto delle caratteristiche un po' troppo distruttive. Sì, o comunque interpretabili da pochissimi. Vi leggo un pezzettino di uno scrittore italiano che poi vi dico chi è, scritto naturalmente molto più di recente rispetto al 66, che io ho messo nel capitolo finale, che è un capitolo interpretativo su quello che accade. Il colmo l'avremo poi quando lo scrittore denuncerà addirittura se stesso e quelle che sono le sue magagne personali e civili. Il suo grado di pericolosità a questo punto non è più calcolabile. Nel rivelare su di sé ciò che avrebbe potuto facilmente tenere nascosto, egli, spogliandosi dal finto, sempre e comunque per tutti, nessuno escluso, divino, per scendere all'umano spicciolo, si proclamerà il Dio più temibile di tutti, l'uomo totale, un uomo cioè qualunque, l'esempio da prendere che per primo si rifiuta di dare, e totale sarà la guerra del sistema contro di lui. Nel suo piccolo è quello che accade a Kerouac. Questo è una delle parti che ho preso a prestito per tutto un ragionamento finale da Nudo di madre, manuale del perfetto scrittore di Aldo Busi. Aldo Busi fa questo saggetto molto bello su che cos'è per lui lo scrittore con la S maiuscola, e clamorosamente lo scrittore con la S maiuscola assomiglia a quello che abbiamo visto di Kerouac, uno scrittore che non pensa né ai lettori né ai presentatori, semmai tenta di tutelare la sua opera da uno svilimento e da un travisamento. E mi ha colpito questo parallelismo rispetto a questo saggetto teorico di Busi e quello che un po' abbiamo visto. Se volete vi saluto, se non ci sono domande o voglia di chiacchierare da parte vostra, con quello che scrisse Fernanda Pivano riflettendo su quello che avvenne in Italia. Lei scrisse: mi vergognavo come una ladra, sapevo che anche questa volta la società si sarebbe vendicata del suo potere spirituale. Lo guardavo disfatto e irraggiungibile, come un leone ferito legato in una trappola, con i clown del circo, i saltimbanchi delle fiere a saltellargli attorno per punzecchiarlo e beffarsi di lui, finalmente tranquilli ora che potevano avvicinarlo senza bisogno di armarsi di picche e senza paura che potesse difendersi. E non riuscivo a superare lo scarto tra la sua realtà di 10 anni prima e la sua realtà di adesso. Ero lì, seduta vicino a Jack Kerouac, narcotizzato dalle esigenze della società. Intorno a lui temutari della rispettabilità culturale, con ferie pagate, 13 mensilità, ansiosi di tradire la moglie con la segretaria e di ubriacarsi in segreto il sabato sera, ma puntuali in ufficio il lunedì mattina. Si divertivano e guardavano l'antico ribelle imprigionato per 76 ore nella trappola di un affitto da pagare. Dissero che era una vergogna. Almeno la televisione avrebbe dovuto presentarsi non ubriaco. E sorrisero con condiscendenza, accendendo sigarette di contrabbando con accendisigari senza bollo, la maggiore delle rivolte, il massimo dei rischi che potessero immaginare. Kerouac capiva tutto, naturalmente, e più capiva, più insisteva nelle sue battute a base di boom boom boom, e più ripeteva nel microfono: sono ubriaco, non per sfida o per ingenuità, ma per un ultimo tentativo di buttare la maschera, come dicendo: sono ubriaco. Gli altri avessero potuto dire: mi ubriaco anch'io, ma non ho il coraggio di dirlo. Kerouac capiva tutto e stava lì come un angelo caduto a guardare il suo nemico di sempre, lui che aveva scritto: non voglio parlare contro le cose, voglio parlare per le cose, finché mi chiese sottovoce: ma cosa sto a fare qui dentro? Io ho una curiosità. Vai. Sono felice che tu l'abbia. Ma nei 4 giorni? Sì. Lui veramente nelle interviste che fece non parlò quasi mai del libro? Che io sappia mai. Io mi sono letto tutti gli articoli di giornale scritti allora. Nessuno dice che si parla del libro. No, perché... l'intervista per la televisione che abbiamo visto, quei 2 minuti o qualcosa del genere, è esattamente speculare tutto quello che avviene. Cioè, Roma è andata più o meno così. Quindi non c'era interesse né no, da parte probabilmente, chi lo no, chi lo intervistava sì che aveva interesse. Lui cambiava argomento subito, però. Ha interesse, alla fine cerchi di trovare, come fece la Pivano, magari. Però anche la Pivano ha provato a farlo parlare, ma del libro non si è mai parlato. Si parlava... si è parlato che scrittori italiani conosci, lui mi ricordo che disse che forse quello conosceva meglio era D'Annunzio, però del libro non si è mai parlato, cioè ci sono stati tentativi di fargli parlare del libro, ma poi sono arrivate delle domande che forse l'hanno stuzzicato un po' di più, tipo cosa pensi del Vietnam, che lo fece un ragazzo, una ragazza del pubblico a Napoli, da quello che si è potuto leggere, non ho mai trovato un documento realmente ampio che veicolasse le chiacchierate che ci sono state. E quindi la reazione, parliamo, spiccò, cioè la Mondadori riuscì a vendere o comunque... Questo non lo so. Questo non lo so. Perché come dicevi tu, dalle recensioni, no. Questo non lo so, questo dato non si lo so. Forse lo scandalo che creò magari fece vendere un pochino, perché i giornali allora ne parlarono non poco. Però lo... distrussero Kerouac in qualche modo come essere umano e come scrittore. Quindi magari questo dato non ci ho mai pensato di provare a cercarlo, se Big Sur vendette in che misura rispetto a altre opere di Kerouac, questo non lo so. E neanche l'entourage della Beat Generation in Italia non lo aiutò a... Spiegati meglio cosa intendi l'entourage della Beat Generation in Italia. Nel 66 stai dicendo? Sì, cioè allora io so di per certo che una persona che poteva essere vicina a Kerouac per come era la Beat Generation era a Milano, che era un signore anche vicino alle riviste underground degli anni 60, però la maggior parte degli esseri umani lì presenti non erano quei pochi che forse avevano masticato e compreso davvero i Beat. Erano altri, tipo, erano curiosi, giornalisti, persone dell'intelligenza culturale italiana, in quelle situazioni. Perché è vero che Palazzolo dice era una sala grande, sì, però una sala grande, una galleria d'arte, cioè, non credo che c'entrasse il mezzo vagabondo che aveva davvero capito Kerouac, lì non credo che ci potesse entrare. Quindi nella libreria Cortina c'era solo l'intelligenza. Sì. O quantomeno c'era anche in alcuni articoli si ricorda che c'era un pubblico giovanile, però già proiettato quasi a un impegno, e che quindi vedere che ero così quantomeno disimpegnato e così profondamente disinteressato a qualsiasi questione politica, soprattutto legata al Vietnam, lo apostrofò a Napoli come fascista. Quindi quelle provocazioni estreme di Kerouac che erano difficili da decodificare in un'altra maniera, forse in quel momento, se non dire cazzo sei uno scrittore, ti presenti sbronzo, non rispetti le regole a cui sono abituati, ti presenti sbronzo, non ci dici niente che riguarda la tua arte e i tuoi libri, cazzo si parla pure di questioni politiche, dici che sei a parte dei soldati, forse l'Italia non era pronta a un discorso che secondo me di decodifica era difficile, eh? Era difficile, non era... mi dispiace, no, forse è sbagliato, sono sorpreso maggiormente per certi versi più da Arbasino, che poteva interpretare certe cose, no? Ma volutamente ha voluto affossare uno scrittore che secondo me ha dato prova di essere molto più vitale di lui, ma era dura riconoscerlo, era meglio affossarlo in quanto ubriaco che non conosceva neanche scrittori, non parla mai di scrittori questo scrittore, ma chi è? Un vagabondo americano, non è che ero a questo, è un vagabondo americano abbiamo preso, ma chi è? Quindi anche stasera tu vuoi fare un Kerouac perché parli poco del tuo libro e ci racconti più. Ma perché io ho scritto... In realtà, aspetta. Forse sì, forse no. In realtà, tutto quello che vi ho detto, io l'ho ricostituito dentro il mio libro. il vero capitolo, io ci sono quattro capitoli, Milano, Roma, Napoli e l'ultimo capitolo di interpretazione mia di tutta la faccenda. Io ci ho messo nel tempo libero più di 2 anni a ritrovare tutti questi dettagli, e quindi tante cose di cui ho parlato sono esattamente dentro qua. Poi adesso magari vi dico un po' come è composto il libro. Allora, ricerche un po' più libresche, mi sono comprato online, o ancora meglio, gli originali articoli degli anni 60. Ho a casa l'Espresso originale con l'articolo di Arbasino e altre cose. Quindi ho trascritto tutti quegli articoli e ho trovato delle incongruenze tra loro, perché la vulgata di Mondadori diceva 76 ore, 3 giorni, in realtà, perché secondo me era giusto, 3 tappe, 3 giorni, in realtà è stato 4 giorni in Italia. E ci ho messo un po' a capirlo, perché ho messo insieme tutti gli articoli, non mi tornavano le cose. Come faceva a passare la notte con Franco Angi e il giorno dopo andare per gallerie d'arte e la sera passarla con quella fotografa e con quel poeta? Sistemando un po' tutte le cose è stato 4 giorni in Italia. Quindi ricerca libresca, articoli di giornale. Altra parte della ricerca libresca, in particolare archivio Mondadori. E lì ho avuto in mano l'unica lettera originale di Kerouac che parla dell'esperienza italiana, che mandò a Mondadori. Poche settimane dopo si scusò, però dicendo una cosa che insomma, simpatica. Caro Alberto Mondadori, ma noi in America siamo abituati a bere durante le presentazioni televisive. E vabbè, dentro ho trascritto la lettera. E poi è nato invece un pezzettino di ricerca più avventuroso. Alzare il telefono e rintracciare delle persone. Quindi Gian Pieretti, che ho visto 3 volte, che ha raccontato un po' delle cose che sono finite anche lì dentro. Parazzoli, la figlia del pittore Franco Angeli. E da lei ho saputo che questo quadro poi è finito in mano a Gian Maria Volonté. E dato che conoscevo il possessore di 100 opere pittoriche di Jack Kerouac, che è un gallerista svizzero di Locarno, quando ha saputo che stavo facendo questa ricerca, mi ha detto: Alessandro, dai, già che ci sei, prova a capire se me la vendono a me quest'opera. Quindi è stato anche un aspetto avventuroso, che io dovevo capire dei dettagli per la mia ricerca e provare in maniera un po' delicata a capire se era in vendita quest'opera. E io ho sentito la seconda moglie di Gian Maria Volonté, che credo sia morta nel frattempo, e 2 figli, cioè una figlia e un figlio. È stato avventuroso il pezzettino anche di questa fotografa che non ho intercettato direttamente io, ma una persona che sapeva che stavo facendo questa ricerca mi ha detto: ma devi sentire questa tizia. Quindi questi aspetti un po' più avventurosi, fino a proprio cavilli, dettagli. C'era un articolo scritto tanti anni fa su Napoli che diceva che Kerouac la notte l'ha passata a cantare canzoni di Frank Sinatra in un club napoletano, ma quel club napoletano è stato fondato negli anni 80, avevo sentito la proprietaria. E quindi ho cercato di mettere insieme un aspetto di passione a un aspetto di rigore assoluto, cioè ogni dettaglio ho cercato di soppesarlo. E sostanzialmente qua dentro avete tutti gli articoli di giornale che parlano di quelle tappe, con delle mie considerazioni su dove probabilmente quegli articoli esageravano in maniera un po' grossolana, non stando attenti a dei dettagli che probabilmente erano andati in una maniera diversa, a delle considerazioni critiche quando gli articoli di giornali sono stati fatti da persone diciamo più importanti come Arbasino, a una valutazione critica di quell'aspetto, perché lì si parla di posizionamenti diversi nel mondo della cultura. Ha tutta un'interpretazione finale, seguendo quella cosa che vi ho accennato prima, del santo pagliaccio, e ho messo dentro una serie di contributi anche da parte di Bataille su che cosa è un uomo, uno scrittore che fa un'esperienza estrema, fa un'esperienza lasciando andare tutto quello che è conveniente seguendo delle regole comuni. Ho cercato di provare a fare un ragionamento dell'artista con la maiuscola che si butta nel vuoto, no? In qualche modo dando una lezione di un'esperienza difficile da cogliere per pochi iniziati, forse. E lì c'è il pezzo più personale, forse mio. E parlando un po' del libro, l'ho cominciato un po' per caso, cioè meglio, su suggerimento di altre persone. Una realtà qui di Milano si chiama Milano Cosa, un'associazione che si occupa di letteratura, e loro anni fa, una volta ogni, non so se ogni mese, facevano un convegno, una conferenza dedicata a scrittori stranieri che avevano avuto a che fare con Milano, o perché nelle loro opere hanno parlato di Milano, o perché ci hanno vissuto, cioè in qualche modo ci doveva essere un incastro significativo. E mi hanno chiesto: vuoi contribuire a questa nostra serie di conferenze? E ho detto: bah, no, non ho niente da proporre, non so. E mi ricordo che in quel momento loro avevano fatto una serata dedicata a un libro che era appena uscito per Schirà, Rambò a Milano, qualcosa del genere. Rambò ha passato qualche giorno in Piazza Duomo, ha ospitato una vedova, e si era parlato di questo. E poi mi ricordo che gli ricontattai perché dissi: ma io so che ero venuto in Italia. E loro hanno detto: vabbè, dai, provo a approfondire questa cosa. E ho lavorato per mesi per tirare fuori la conferenza dedicata a Kerouac a Milano, e basta, in un posto prestigiosissimo. Non ho mai fatto conferenze in Italia in un posto così bello, in una sala affrescata dalla biblioteca Sormani davanti a 100-200 persone, cosa così. E io collaboravo con Marcello Baraghini di Stampa Alternativa da un po' di tempo, e il giorno dopo di questa mia chiacchierata su Kerouac a Milano c'era una fiera di editoria indipendente qua a Milano. Vado a trovare Marcello, gli do il brogliaccio della la bozza della chiacchierata che avevo fatto dedicata a Kerouac a Milano, e lui dice: figata, devi andare avanti, te la pubblico io. Poi quando è arrivato il momento di pubblicarmi, mi continua a dire: tra tre mesi, e vabbè, niente. Quindi non, di per, cioè, stando ai miei interessi, mi bastava quel poco che sapevo, a dire la verità. Senza questo stimolo esterno non sarei andato avanti. Questo è stato molto bello, è stato forse la vera ricerca con la R maiuscola della mia vita, perché tutto il resto di cose che ho fatto si sono basate molto su altri libri. Qui nessuno aveva mai approfondito questa cosa, e le biografie di qualità di Kerouac, anche pubblicate negli ultimi anni in America, parlano di questi giorni in Italia in due righe. Lo invitò Fernanda Pivano, cosa non vera tra le altre cose, era sempre ubriaco, finita lì. E un altro tipo di avventura che mi vedo davanti è il fatto che una signora che ha lavorato al meridiano dedicato a Kerouac, a degli apparati, mi sta traducendo questo lavoro per il mercato americano. Per me è una piccola avventura, sapendo che là ogni anno escono 3, 4, 5 libri sui beat, ogni anno. E un altro pezzettino, un appendice di avventura. Per me è già solo strano pensare che questa mia ricerca possa uscire in americano, però si sta lavorando in questo fronte qua. Alessandro, sei d'accordo? Io fare un altro intermezzo musicale. Sono d'accordissimo. E poi, se vogliamo, secondo me scendiamo dal palco, e se abbiamo ancora un po' da chiacchierare lo facciamo più informalmente, magari con una sigaretta. Basta fuori. Che non mi fai ballare, poi il resto va bene. No, assolutamente. Adesso sentiamo. Sentiamo Country di Big Jack, per esempio. Thank you.